Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ostriche, champagne, viene giù una valanga, strisciolo, schifa, settimana bianca, faccio il pieno al sud, scende il mio conto in banca, quando salgo su, settimana bianca. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso un filtro speciale. La nostra promessa è quella di raccontarvi il modo in cui la società umana si pensa rispetto alle altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 764, parleremo dell'uscita del film Cuori Liberi, parleremo di caccia, perché si è appena aperta la nuova stagione venatoria, parleremo di Trump, degli haitiani e degli animali domestici, parleremo del libro Guerra agli umani e parleremo di un concorso molto divertente e utile. E non mancherà una ricetta vegana, cruelty free, a cura di Gabriele Palloni, vegan chef, che è anche DJ e ha curato il montaggio musicale di questa trasmissione. Speriamo di avervi incuriosito. Però se ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci che mi hanno preso l'anima degli mortacci tua. Dopo il docufilm di Giulia Innocenzi, Food for Profit, un altro documentario importante e coraggioso è in programmazione in questi giorni nelle sale italiane. Si tratta di Cuori Liberi, un film distribuito da Mescalito Film, società di produzione e distribuzione cinematografica indipendente che porta nelle sale italiane il meglio del cinema biografico e documentaristico. Cuori Liberi documenta ciò che accadde il 20 settembre 2023, un anno fa, a Sairano, quando lo Stato, attraverso il servizio sanitario veterinario, entrò con forza in un rifugio e uccise barbaramente 9 maiali che vivevano in quel luogo e che erano curati e accuditi da volontari che ne riconoscevano l'unicità e l'individualità, e infatti avevano un nome. La storia dell'eccidio di Sairano è la storia di una grave ingiustizia, di una vicenda violenta collegata al panico che hanno gli allevatori di fronte alla diffusione della PSA, la peste suina, e è la storia delle scomposte reazioni dello Stato alla pressione degli allevatori. La data del 20 settembre, che resterà indimenticata da tutte le persone del movimento animalista e antispecista, italiano e non solo, ci deve ricordare che altri maiali residenti in rifugi sono ancora a rischio uccisione. Naso e Rosino, per esempio, sono due cinghiali che sono stati salvati da una persona in Liguria, recuperati feriti dopo un'operazione di caccia, e questa persona, questa signora, li ha allevati come dei cani, quindi sono in perfetta salute, vivono in un grande recinto in biosicurezza, seguendo tutte le raccomandazioni del caso, non hanno contatti con l'esterno, ma per le regole vigenti, la ASL 3 della Liguria li ha già condannati a morte e solo la tenacia del rifugio Miletta e dell'avvocata Carucciolo mantengono accesa la speranza attraverso i ricorsi in tribunale che sono stati attivati. Lotterò tutti i giorni per rivendicarti, per ricordarti. Sono Romina, sono una madrina, faccio la rotta in cuore con orgoglio e rancore. Ai loro manganelli, alle loro spranghe, rispondo solo, ti includo a sangue. Sono arrabbiata e scintillante, ti includo senza luce. ai maiali uccisi a Sairano che avevano un nome, e a tutti gli altri, quelli degli allevamenti che il nome non lo hanno mai avuto e che sono stati uccisi nel silenzio in allevamenti sconosciuti e distanti, è dedicato questo documentario del regista Alessio Schiazza con Roberto Manelli, Sara D'Angelo e Giulia Innocenzi, che dura 82 minuti e che per vedere occorre cercare in rete digitando Cuori Liberi. La prima scelta sarà proprio la pagina della Mescalito Film, dove potrete cliccare su distribuzione per accedere al calendario delle proiezioni. Anche nella prossima puntata parleremo di questa vicenda, di questo documentario importante, con un contributo di Sara D'Angelo, che è portavoce della rete dei santuari italiani. Parliamo di caccia, potremmo dire chi ben comincia. La stagione venatoria infatti ci anticipa un conto, ed è un conto molto salato. Sono già morti 3 cacciatori, 2 sono stati feriti e 2 donne, moglie e figlia di un cacciatore che ha usato l'arma da caccia che aveva in casa, sono morte, appunto uccise dal cacciatore. Il conto riguarda 4 giornate di caccia. Da una parte c'è la passione, o possiamo dire forse la dipendenza, da quella che viene definita ars venandi e che noi definiamo come una foga predatoria del cacciatore sanguigno. Dall'altra parte c'è lo scambio con la politica, che per agevolare questa pratica concede una certa elasticità nelle regole e il continuo abbattimento dei divieti, dei limiti, dei lacci e lacciuoli, e così facendo incassa voti, compiacendo anche l'industria delle armi e delle munizioni, che sappiamo essere potentissima in Italia. Vediamo da anni gestire il territorio nell'interesse della categoria armata, per cui loro hanno il diritto di entrare nei fondi privati, a meno che con costosissimi interventi non si recinti tutto quanto, ma così facendo si toglie spazio vitale e movimento libero proprio a quei selvatici che vorremmo tutelare. Intanto le aziende faunistico-venatorie sottraggono spazio a chi delle armi ha paura. Camminare nei boschi, dormire sereni, aprire attività turistiche in alcune zone è diventato impossibile per il baccano guerresco dei fucili da caccia. I giovani poi non sono appassionati come gli anziani, manca il ricambio generazionale e il mondo venatorio è costituito da persone anziane, sempre più pericolose, che spesso, anche solo per disattenzione, finiscono per ferire dei passanti o uccidere dei congiunti o dei parenti che sono a caccia con loro, come abbiamo più volte segnalato in questi anni. Poi ci sono le conseguenze della caccia in ambito extravenatorio. A Perugia, per esempio, un uomo anziano, quasi settantenne, si è visto rinnovare la licenza di caccia e il porto d'armi nonostante da ben prima di un anno gli fosse stato diagnosticato un grave disturbo depressivo. Con le armi a disposizione in casa, ha ucciso la figlia e la moglie in una serena giornata di sole. Userò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti, per capire cosa pensi nei tuoi primi piani intensi, nei tuoi piani americani così intensi e così italiani. Fatti un po' a cazzo di cane. Userò gli occhi del cuore come fa un dottore cieco quando che opera i pazienti stanno tutti molto attenti. Poi altre storie di ordinaria follia, come quella del cacciatore che ha sparato ma, sbagliando mira, ha finito per colpire il cavo dell'alta tensione, lasciando un paese senza corrente elettrica. È successo in provincia di Arezzo domenica 15 settembre. Altra notizia sfolgorante è quella di un cacciatore morto il 16 settembre a Cetona, Fausto Ceccarelli, 47 anni, rimasto appunto folgorato dai cavi dell'alta tensione mentre stava utilizzando una pertica che sembra fosse alta 11 metri per attrarre gli uccelli selvatici. Su questa pertica aveva legato un colombaccio. Incolpevole, innocente, animale da richiamo. Nessuna notizia di che fine abbia fatto. Immaginiamo che sia stato folgorato anche lui. Siamo quindi in questa situazione. Se lo Stato volesse tutelare le persone, e la sua fauna selvatica vieterebbe la caccia, ma evidentemente ci sono altri interessi in gioco e queste disgrazie vengono considerate semplici danni collaterali. Ricordiamo che nella precedente stagione venatoria 2023-2024 di vittime innocenti, cioè non cacciatori, ne abbiamo contate ben 28, 6 morti e 22 feriti. Tra questi 7 erano minori. La fonte di tutte queste informazioni è l'Associazione Vittime della Caccia. Potrete trovare questi dati e molti altri sul blog www.vittimedellacaccia.org. Martedì 10 settembre Donald Trump e Kamala Harris, i due avversari che si confronteranno alle prossime elezioni statunitensi di novembre, si sono confrontati in TV in un acceso dibattito che è stato guardato in diretta da 67 milioni di telespettatori. In quella sede Trump ha sostenuto che la comunità haitiana di Springfield, Ohio, mangia gatti e cani domestici, un discorso pericolosissimo che va a colpire dritto al cuore, perché si sa che subito dopo i bambini nella classifica degli affetti ci sono proprio loro, gli animali domestici, i cani e i gatti che vivono nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Dopo questa agghiacciante strumentalizzazione a fini razzisti, che evidentemente è stata studiata a tavolino perché si era certi che su un certo tipo di elettorato avrebbe funzionato, tutte le persone ragionevoli sono entrate in profonda angoscia. A farci tornare a sorridere è stato il geniale video musicale satirico Eating the Cats, un arrangiamento intrigante e divertente nel quale David Scott, nome d'arte The Kiffness, crea una base musicale molto molto efficace, una specie di tormentone che ti resta in mente, e invita a tornare a ragionare con ironia e leggerezza. Interpellato sulle sue motivazioni, Scott ha sostenuto di voler unire tutti a favore di un'unica causa, e la causa sarebbe una raccolta fondi a favore di canili e gattili di Springfield, Ohio. Tutti i proventi del video saranno destinati proprio ai canili e ai gattili. Il suo video in sole 24 ore è stato guardato, pensate, da oltre 50 milioni di persone. Chi non l'avesse ancora visto può cercarlo in rete. In Springfield they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa, whoa. They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. Purtroppo però il discorso di Trump ha avuto conseguenze reali, arrivando dove doveva arrivare. Gli haitiani di Springfield in questi giorni sono vittime di continue minacce. La fake news consisterebbe nel fatto che negli ancestrali riti voodoo questi sacrificherebbero animali domestici come cani e gatti. La notizia è falsa. A essere sacrificati sono animali da reddito, come galline e galli, le cui carni purtroppo sono abitualmente usate a scopo alimentare non certo solo dagli haitiani, ma dagli statunitensi come da tutti gli altri, quasi tutti gli altri abitanti della terra. Ancora una volta si usa l'amore verso gli animali, pardon, verso alcuni animali, per giustificare l'odio verso gli umani, pardon, verso alcuni umani. Un velenoso impasto di razzismo e di specismo, che si spiega con quel doppio standard secondo il quale la nostra violenza è sempre migliore della loro e siamo solo noi a poter decidere quali viventi sono meritevoli e verranno salvati e quali non lo sono, non contano e verranno sommersi. Questo etnocentrismo è insopportabile. e ogni volta che esplode diventa miccia per nuovi pogrom, nuove aggressioni, nuove discriminazioni. In realtà, secondo quanto pubblicato nei media, tra l'altro a essere fermata per aver ucciso e cucinato un gatto ad agosto è stata una persona statunitense e non si conoscono altri episodi. Superare questi doppi standard, vivere lasciando vivere, rigettare ogni tipo di sacrificio animale fatto in nome di qualsiasi credo, da quello nutrizionale a quello della ricerca scientifica fino a quello religioso, è l'unica soluzione per uscirne in piedi. L'altra strada è il buio, la brutalità e la ferocia arbitraria, camuffate da giustificazioni pretestuose. I nostri amici Troglodita Tribe ci hanno mandato un contributo interessantissimo che ci porta in Belgio, dove si svolge una delle sfide più pazze del mondo, una di quelle sfide fantasiose che ci ha fatto tornare con la memoria ai tempi dei giochi senza frontiere. Ma dietro la facciata bizzarra e stravagante c'è un obiettivo assai nobile. Sentiamo. Cooper Wallace, un bambino di 9 anni, ha vinto la 4ª edizione del campionato europeo del garrito del gabbiano che si tiene in Belgio, nella città costiera di Depan, nelle Fiandre occidentali. La sua imitazione è stata talmente verosimile da indurre i giudici ad assegnare proprio a lui ben 92 punti su 100. Il campionato europeo del garrito del gabbiano è un simpatico e originale concorso nato con intenti molto seri e soprattutto organizzato da ricercatori e biologi marini in cui i concorrenti imitano il comportamento e i richiami dei gabbiani. L'intento è quello di riabilitare la loro immagine che negli ultimi anni sta perdendo quota a vista d'occhio. Non trovando più cibo a sufficienza nei mari spopolati da una pesca senza limiti, i gabbiani sono spesso costretti ad avvicinarsi alle discariche e a cibarsi di rifiuti. A volte nidificano sui tetti delle città costiere, tanto che vengono definiti i topi del mare, scatenando ira e avvelenamenti. Ma i gabbiani sono fondamentali per gli ecosistemi costieri e quindi, grazie a questo campionato, numerosi concorrenti, dopo aver osservato, ascoltato e studiato i gabbiani, ne imitano le diverse tonalità con le quali comunicano per poi esibirsi durante il campionato. Il piccolo Cooper Wallace ha anche raccontato che il suo interesse nei confronti di questi magnifici uccelli è nato mentre stava mangiando un panino in spiaggia e uno di loro è sceso in picchiata per rubarglielo. Da quel giorno, invece di considerarli pericolosi nemici, si è chiesto cosa stesse accadendo e ha cominciato a osservarli con più attenzione, fino a conoscerli sempre meglio. In breve tempo li ha trovati particolarmente simpatici, proprio per quei versi fragorosi che caratterizzano tutte le zone di mare. Ha imparato che i loro garriti hanno diverse tonalità. A volte sono segnali di allarme che servono per trasmettere ai loro compagni che è meglio allontanarsi. Altre volte sono invece una sorta di minaccia usata per comunicare che non vogliono intrusi nel loro territorio. Osservazione, studio e tolleranza per una specie diversa dalla nostra sono i concetti base di questo festival in favore dei gabbiani, che con un pizzico di ironia e divertimento cerca di avvicinarci agli animali e alle loro complesse modalità di comunicazione, un modo diverso per informare e allontanare i pregiudizi che generano l'odio verso gli animali. Un festival interessante perché sottolinea l'urgente necessità di riparare i danni causati dal nostro impatto invasivo e antropocentrico che stravolge tutti gli ecosistemi. E adesso per la cultura vi proponiamo una recensione speciale curata da Valentina Baronti del libro di Wu Ming II, Guerra agli umani. Girando tra gli scaffali della biblioteca in cerca di un libro per le vacanze, mi sono imbattuta in Guerra agli umani di Wu Ming Due. Ad attirarmi è stato sicuramente l'autore, garanzia di un romanzo avvincente e ricco di stimoli. È stato il titolo e la copertina. Una foto in sfondo rosso, uno scoiattolo morto, ucciso, in mezzo a una strada che attraversa il bosco. Il romanzo è del 2003. È feroce, fin dalle prime pagine. È scioccante, fa riempire gli occhi di lacrime e tremare il cuore. Ma quello che è ancora più assurdo è che via via che le pagine scorrono, quello shock si attenua e diventa normalità, come se noi lettrici e lettori piano piano assorbissimo quella ferocia e la considerassimo normale. Guerra agli umani non racconta una storia, ne racconta mille, incastrate tra loro, con tutti quei personaggi che via via che leggi te li dimentichi e che quando la trama inizia ad infittirsi piano piano si ricompongono, si avvicinano per poi andare a costituire un'unica grande storia. È un carosello, Guerra agli umani, un carosello caotico di personaggi umani, animali, naturali, che si rincorrono tra le pagine in storie di caccia, immigrazione, solitudine, sfruttamento, settarismo. Un carosello che però non dà risposte, pone solo domande, non affronta un tema della contemporaneità, ma li attraversa tutti. E anche i personaggi più illuminati alla fine escono sconfitti da loro stessi. I personaggi umani, si intende, perché quelli animali e naturali invece, per quanto fiaccati, escono puri, gli unici capaci di regenerare la vita. Babaraskababa, drei Barbaren und der Bad Barbier saßen eines Abends an der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja wo wart denn ihr? Drei Barbaren und der Bad Barbier. Un libro violento, che racconta la violenza, però è anche un libro di grandissima poesia, ironico, dissacrante, per certi versi un thriller che ti porta a leggere le pagine velocemente ma poi ti fa tornare indietro perché ci sono veramente delle pagine di poesia incredibile dedicate al nostro pianeta. Per certi versi ricorda I Malavoglia, per tutti quei personaggi che non hai neanche capito bene chi sono. E allora ti viene voglia di rileggerlo appena finito, però resistete, non lo fate, fatelo depositare, perché l'ho detto, Guerra agli umani risposte non ne dà. Ma intanto, se riuscite a isolare una domanda, partite da lì e iniziate a costruire. Solo dopo, voi, come io stessa, potremo rileggerlo alla ricerca della prossima domanda. Il libro Guerra agli umani di Wu Ming Due è uscito per i tipi dell'editore Einaudi nel 2008. Per incuriosirvi, Valentina Baronti ve ne leggerà un breve estratto. Una coppia di fagiani si alza dal fitto del bosco, lanciando richiami alla vetta del ceraso. Appena si allontanano, torna il silenzio. Un silenzio troppo vuoto, qualcosa non torna. Forse anche il re del mondo ha deciso di starsene zitto una buona volta. Ha tutta la mia approvazione. Meglio godersi il panorama, meglio tacere che essere fraintesi. Ma quando aggiro l'ultimo costone e le erbe amanti dei terreni umidi allargano le foglie e si alzano fino alla coscia, capisco cosa manca nel silenzio della mattina. Manca l'acqua, manca la corsa del ruscello sulle marne scure. Affretto il passo, mi faccio largo tra le felci, raggiungo il sentiero che scende dalla grotta, via, più veloce della lepre. Il cadavere del rio Conco è lì, sdraiato nell'erba. Un filo d'acqua increspa a fatica la superficie dei sassi, cola dal muschio come bava sulla barba di un moribondo, cola come sangue da una ferita letale. Già detto cos'è, tu vedi tutti sti vecchini, a già brisco le scope dentro i circolini, poi si sfavano e parte il rosario, perché moccolano anche per pagare il pallaio. D'inverno fra come mi garba tanto, dalle luci in centro a Antuccini quei vinsanto, d'estate che accese sto qui e vuoi in mare. Ma che ti effi? E son c'è soldi andrò in carcetti. Quando siamo in Banza rompano gli oni ogni orta, con la ola ola la nuccia orta orta. Shh, silenzio. Se vu seguitai dell'altre vi si buttano i bisenzio. Mi amo e scherzo, vien via la Toscana, gli è bislacca, ma si frigge mi ho l'acqua. Ecco, questo gli è pensiero e sciaveo, e se tu la pensi come me, allora vien mi reo. Il tosco vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il Pasto Gentile, propone ogni settimana una ricetta senza crudeltà, a tema. E nel suo repertorio ci sono anche molte ottime ricette non italiane. Questa settimana Gabriele ci porterà in Belgio, paese che ospita il simpatico contest del Garrito del Gabbiano, un concorso che ci ha veramente conquistato. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. A questi simpatici ed insoliti, ma altrettanto lodevoli, imitatori di gabbiani dedichiamo la ricetta delle gaufre, le famose cialde o waffle belga. Ma come sempre vi raccontiamo la nostra versione priva di crudeltà. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 ml di latte vegetale, 160 g di farina tipo 0, 60 ml di olio di semi di girasole, 50 g di zucchero, 8 g di crema or tartaro o lievito per dolci, un pizzico di sale, della vaniglia e dello zucchero a velo per decorare. In una ciotola versate il latte vegetale, lo zucchero e l'olio di semi. Unite la vaniglia e un pizzico di sale. Soprattutto, senza ancora mescolare, versate la farina e il crema or tartaro che avrete precedentemente setacciato. Adesso lavorate bene il tutto con una frusta fino ad ottenere una pastella bella liscia. Ungete la piastra da gaufre e versate 3 cucchiai di impasto. Fate cuocere 5 minuti circa, togliete dalla piastra e servite spolverando con zucchero a velo. Per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 765 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.